Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. minuti 30 secondi in questo esatto istante. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli, che sono in redazione. E le coordinate per interagire con noi: 349-238-6666, Twitter Giampaz oppure Nessun Luogo 24, la pagina Facebook è invece Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. A punteggiare i temi che tratteremo quest'oggi in regia c'è Roberta Frisani. Allora, giornata questa che è dedicata per la maggior parte di questa trasmissione all'Egitto, perché oltre alla nuova legge contro il terrorismo, che promette il pugno duro anche contro i giornalisti, è arrivata una notizia che è in corso di conferma e che ha visto l'arresto di 26 militari, arresto che è avvenuto in realtà nei mesi scorsi, ma la notizia è uscita in questi ultimi minuti, queste ultime ore, di 26 militari egiziani che avrebbero ordito un colpo di Stato. E questa, se confermata a tutti gli effetti, sarebbe una notizia che in qualche modo sgretola la granitica immagine che Al-Sisi stava dando di sé, stava cercando di dare di sé, appunto. Allora, per iniziare a commentare questa notizia, ma anche e soprattutto questa nuova legge antiterrorismo, ritroviamo Giuseppe Acconcia. Buongiorno, ben ritrovato in Nessun Luogo Lontano, Giuseppe. Buongiorno a voi. Allora, Giuseppe Acconcia lo potete leggere sul Manifesto, ma è anche ricercatore per ISPI, l'Istituto per gli Studi sulla Politica Internazionale, ed è nostro gradito ospite per la seconda volta in questa edizione di Nessun Luogo è Lontano. Giuseppe, non so se anche tu hai letto, stai seguendo su Twitter, BuzzFeed ha rilanciato, è un freelance quello che avrebbe sarebbe anche riuscito a parlare con alcuni familiari sotto anonimato degli ufficiali incarcerati, no? L'arresto risale un paio di mesi fa e adesso però la notizia è venuta fuori. Se confermata, ma non vedo motivi per non confermarla, insomma è la prima volta che dai 2 anni in cui Al-Sisi è al potere viene fuori un tentativo di mettere in discussione la sua leadership. In realtà questa notizia è molto interessante perché richiama la debolezza dell'esercito egiziano, che dopo il colpo di stato militare del 3 luglio del 2013 ha avuto alcune defezioni, non è quindi questa entità monolitica come è stata rappresentata. Sì. Non solo, indica lo stato di polizia e la militarizzazione che è diffusa in Egitto e che a sua volta porta a dissenso anche all'interno delle gerarchie militari. Il primo a dissentire nei confronti del presidente Abdel Fattah al-Sisi è stato Sami Annan, che quando ci sono state le elezioni presidenziali del 2014 aveva addirittura avanzato la possibilità di una sua candidatura. Dopodiché, secondo lui, ha subito un attentato che poi non è stato mai verificato, provato, e questo gli ha impedito di partecipare alle elezioni. Evidentemente questi elementi, tra questi si inserisce anche la condanna dei 26 militari accusati di golpe, dimostrano che l'Egitto in questo momento è un paese in cui tutti possono fare un colpo di Stato. Ci hanno provato all'interno di varie corporazioni, per esempio c'è stato un golpe all'interno della magistratura che ha portato al nuovo ministro della giustizia, c'è stato un golpe all'interno del ministero dell'interno che ha portato all'avvicendamento di Ibrahim, che è il sanguinario ministro che ha disposto il massacro di Rabe el Adawiya. In qualche modo si può dire che lo stesso Abdel Fattah al-Sisi, per arrivare a capo delle forze armate, al ministro della difesa e poi alla presidenza della Repubblica, ha fatto un colpo di stato militare all'interno dell'esercito che l'ha portato ad ascendere alla carica più alta. Questo vuol dire che in Egitto non ci sono molti democratici, è una potenziale democrazia senza democratici, e questo non fa altro che riprodurre il regime militare che ora è presente nel paese. Sì. Peraltro, secondo la BBC in arabo, 4 degli ufficiali condannati erano colonnelli, però in pensione. degli altri non si riesce a capire bene l'identità, ovviamente immaginate, insomma. Giuseppe, come leggere una notizia di questo tipo? Allora, è chiaro che una volta che c'è la condanna da parte del tribunale militare è anche più facile, no, per un giornalista andare a capire le sorti di questi 26 che erano spariti 2 mesi fa, eccetera. La notizia secondo te è scappata, è sfuggita di mano ai militari? Cioè avrebbero preferito decisamente che non venisse fuori questa indiscrezione della condanna? Poi ripeto, le accuse sono di tentato colpo di Stato, ma chissà a questo punto, no? In realtà all'esercito normalmente giova molto che vengano diffuse queste notizie, perché da una parte può rappresentare le gerarchie militari come coese per tenere fuori i possibili disertori o chi vuole opporsi al regime imposto da Abdel Fattah al-Sisi, e dall'altra fa il gioco di un tentativo che va avanti dal 2011 di rafforzare la giunta militare prima di Hossein Tantawi, che è stato al potere per nel governo ad interim che è durato 1 anno e mezzo fino alle elezioni che hanno poi portato l'ascesa di Mohamed Morsi, presidente parlamentari e poi presidenziali, e questo è un tentativo ovviamente di rappresentare l'esercito come vicino al popolo, che è sempre stato portato avanti in maniera chiara con i comunicati che venivano presentati alla popolazione per dire che l'esercito appoggiava il movimento di piazza, e quindi è un tentativo di finta trasparenza che viene portato avanti dai militari da sempre, dall'inizio delle rivolte dal 2011, per rappresentare la loro vicinanza al popolo egiziano, ma dall'altra individua una fragilità che non deve essere esagerata, ma non deve essere neanche nascosta, che può essere poi la chiave di lettura per capire quello che avverrà, perché si avvicinano le elezioni parlamentari e questo porterà evidentemente ad un confronto all'interno della gerarchia militare se creare un partito politico a sostegno di Abdel Fattah al-Sisi oppure no, e quindi questa sovrapposizione tra elite politica e militare sarà messa a dura prova dal voto. Certo, no, perché una prima lettura poteva essere, attenzione, perché una notizia come questa, se esce da un tribunale militare, va a minare, no, questa solidità, questo essere così granitico appunto dei militari egiziani, però insomma ci hai spiegato come la cosa sia molto più tinta di grigio di quello che si può vedere a prima vista. Abbiamo citato all'inizio di questa trasmissione questa nuova legge contro il terrorismo. Fondamentalmente le forze militari si prendono ancora più poteri, vengono inasprite le pene fino a 25 anni, perché in realtà l'ergastolo vero e proprio non c'è, quindi fino a 25 anni per chi finanzia i gruppi terroristi, chiunque venga ritrovato colpevole di aver di essersi unito a un gruppo militante può addirittura ricevere fino a 10 anni di prigione di pena, e poi c'è questo pugno duro contro i giornalisti con pene pecuniarie estremamente pesanti, soprattutto per i semplici giornalisti, per i freelance, e ovviamente anche la prigione. Prima di soleticarti su questo tema, Giuseppe Acconcia, andiamo a descrivere un po' quello che è il panorama mediatico egiziano, cioè chi scrive di cosa in Egitto. La libertà di stampa egiziana è sotto attacco. Da luglio 2013, data del golpe di Mohamed Morsi, Reporters Sans Frontières ha denunciato un'allarmante diminuzione nella possibilità per i giornalisti di svolgere il proprio lavoro. Le principali testate quotidiane come Al-Ahram e Al-Akhbar sono infatti strettamente legate al governo, mentre altre come Al-Ahrar sono l'emanazione diretta di un partito politico. Tra i titoli che si proclamano indipendenti, che si sono moltiplicati dopo la caduta di Hosni Mubarak, spiccano per diffusione Al-Masri Al-Yum e Nadet Miser. Il governo egiziano controlla anche le 8 principali reti televisive e radio del paese attraverso una stretta collaborazione tra l'ente dell'Unione Egiziana Radio e Televisione e il Ministero dell'Informazione. L'Egitto è stata la prima nazione araba ad entrare in possesso di un satellite, il Nilosat, mentre gli egiziani online hanno raggiunto i 30 milioni nel 2012. 14 milioni nel 2013 i profili Facebook, più del 25% di tutti gli utenti del Medio Oriente. Domenica 16 agosto, nel contesto di una nuova legge antiterrorismo, il governo è però tornato ad attaccare la libertà di informazione. Per quei giornalisti che pubblicano notizie relative al terrorismo divergenti dalle fonti ufficiali, sono previste sanzioni fino a $65,000, se non addirittura la reclusione. Allora, questo è il tratteggio appunto del panorama mediatico egiziano. Giuseppe Acconcia, un primo commento su questa nuova legge. Sì, non è un caso che la notizia delle condanne dei 26 militari che hanno tentato un golpe e quella della legge antiterrorismo vengano negli stessi giorni, perché evidentemente i militari da una parte raccontano quello che è avvenuto all'interno delle loro gerarchie, ma dall'altra vogliono anche ricordare che il pugno duro non finisce mai, in particolare in un contesto in cui ci sono nuove proteste dei lavoratori, in particolare contro la riforma del pubblico impiego, si sono incontrati proprio di fronte al sindacato dei giornalisti nei giorni scorsi. Evidentemente questa legge è una legge gravissima, una legge più grave della legge di emergenza in vigore al tempo di Hosni Mubarak. Non solo, accelererà le esecuzioni delle condanne a morte dei leader della Fratellanza, sono centinaia di attivisti e leader dei Fratelli Musulmani che sono in prigione e anche tra questi l'ex presidente Mohamed Morsi. Evidentemente con questa legge rischiano di essere prima o poi impiccati, perché vi ricordo che oltre alle cose che dicevi, quindi ricordando le corti speciali che sono permesse da questa legge, sì, è prevista anche la pena di morte per chi finanzia i jihadisti, è prevista la pena di morte per chi guida organizzazioni terroristiche, sono previste processi per direttissima per chiunque venga sospettato di far parte di un'organizzazione legata all'islamismo radicale. Evidentemente tutto questo è legato principalmente all'instabilità che è presente nella regione del Sinai e agli attacchi che vanno avanti ormai da mesi. Vi ricordo che sono oltre 200, anche di più, i morti negli scontri tra polizia militare da una parte e jihadisti nel Sinai dall'altra, molto spesso jihadisti sostenuti dai beduini locali, a tal punto che nelle ultime settimane ci sono stati addirittura lanci di missili, c'è stata una decapitazione da parte di Beit al-Maqdisi, che è il gruppo che dice di essere affiliato allo Stato Islamico nel Sinai, sì, e quindi evidentemente questa legge antiterrorismo viene come diretta risposta a questo. Sì. Giuseppe, stai con noi perché poi al 349-238-6666 sono arrivate un paio di domande di ascoltatori sulle quali magari ti solleciterò, non prima però di avervi fatto sentire la reazione di Reporter Sans Frontières, in particolare di Christophe Deloire, che è il segretario generale appunto di Reporter Sans Frontières, al quale ho chiesto innanzitutto una reazione dopo l'approvazione di questa nuova legge. At Reporters Without Borders we consider that unfortunately e il segretario generale di Reporter Sans Frontières dice: noi come organizzazione pensiamo che sia molto grave che il governo consideri la propria verità l'unica verità esistente, cioè l'unica che possa essere espressa. I media non possono dire nulla di diverso in merito, per esempio, ad attacchi, a bombe, rispetto a quello che dice una fonte governativa. L'Egitto è nella posizione 158 nella classifica sulla libertà di stampa, su 180 paesi monitorati. La situazione è sempre più grave. Almeno 15 giornalisti sono in prigione, continui rinvii dei processi dei giornalisti di Al Jazeera e il governo continua questa terribile politica rispetto alla libertà, soprattutto quella di informazione. In our World Press Freedom Index, that's to say. Allora, una delle domande chiave da porsi in casi in cui un governo, uno Stato esercita un pugno duro, un pugno così forte, è segno di debolezza o è segno di forza? Sentite cosa dice Christophe Deloire. It's difficult to say if such a law is a sign of weakness of or of E lui dice è effettivamente difficile dire se questa legge sia segno di debolezza o di forza. Di certo è un atto di violenza verso la popolazione egiziana che non può leggere i giornali, ascoltare la radio cercando di trovarvi opinioni diverse. È il lavoro del giornalista cercare opinioni e prospettive differenti per cercare la verità dei fatti. Questo in Egitto non è più possibile per la politica violenta del governo. To look TV where different versions could be given. It's journalism to try to look for the truth, to look for the truth. E la terza domanda che ho fatto a Christophe Deloire, segretario generale di Reporter Senza Frontiere, è quanto e se l'organizzazione abbia cercato di far sentire la sua voce al Cairo per cercare di cambiare le cose. E lui ammette: sfortunatamente non è facile essere ascoltati dal governo egiziano. Noi abbiamo fatto un appello per far rilasciare i tanti giornalisti in carcere e per abolire questa legge, ma di sicuro non lo faranno nel prossimo futuro. Ci sarebbe bisogno di molta più pressione su di loro, ma i governi occidentali non la attuano, preferiscono avere dei buoni rapporti. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che sta accadendo in Egitto, dove il paese è sempre più dispotico. E infine l'ultima domanda riguarda, come dire, gli anticorpi che il sistema dell'informazione può avere. Se è vero che i grossi media sono più o meno tutti sotto il controllo statale, allora forse il singolo freelance e l'organizzazione di giornalisti indipendenti potrebbe far qualcosa. Sentite che cosa dice ancora Christophe Deloire. It's very, very dangerous to try to resist. E lui dice: è molto pericoloso cercare di resistere in Egitto. Tutti i giornalisti, egiziani o no, anche quelli non professionisti, possono essere condannati a pagare altissime multe. Quando il regime vuole condannare un giornalista, lo fa. In aprile c'è stata una sentenza di morte per un fotografo che aveva seguito le proteste di 2 anni fa. Non hanno ancora rilasciato i giornalisti di Al Jazeera, nonostante la pressione internazionale. Difficile quindi che cambino la loro politica. Allora, siamo ancora con Giuseppe Acconcia, esperto di Egitto, giornalista, ricercatore per l'ISPI, per commentare questo nuovo giro di vite da parte di Abdel Fattah al-Sisi sulle libertà individuali, complice la lotta al terrorismo, ma anche sulla libertà di stampa. Però prima, Giuseppe, ho un paio di domande, in particolare Luca da Cagliari, che dice in realtà si chiede quanto può resistere il governo di al-Sisi in un paese fortemente instabile, aggiunge l'ascoltatore, per colpa dei fratelli musulmani. E poi dice: ma se cadesse l'attuale governo egiziano, il paese potrebbe diventare una nuova Libia e una nuova pedina nel risico dello Stato islamico? Adesso poi lì si è lanciato forse un po' troppo in avanti, però Giuseppe, quindi per riassumere, è possibile una caduta di al-Sisi secondo te nel breve termine, visto il pugno duro che usa e la non graniticità della sua struttura? E secondo, quale scenario si potrebbe aprire? Lì mi sembra che si apra proprio il vaso di Pandora. Sì, in realtà è evidente che se si svolgeranno le elezioni parlamentari e quindi il presidente Abdel Fattah al-Sisi avrà la possibilità di portare il paese ad una forma di transizione che non è evidentemente democratica, è possibile che il suo governo vada avanti, la sua presidenza della Repubblica vada avanti con un governo più o meno da lui controllato. Evidentemente, se invece le elezioni parlamentari non dovessero svolgersi, vuol dire che è in corso una lotta di potere talmente forte all'interno delle gerarchie militari, evidentemente con i loro legami con i giudici e con la polizia, che la presidenza di Abdel Fattah al-Sisi non potrà andare avanti lungamente, quindi ci sarà un nuovo rimpasto con una nuova figura che potrebbe essere portata a scendere al potere dalla giunta militare o comunque da chi si trova intorno al presidente. Evidentemente però questo non porta l'Egitto ad un'instabilità politica come quella che attraversa la Libia, la Siria, perché l'Egitto è uno Stato forte, uno Stato centralizzato, le risposte, gli anticorpi a tutti i movimenti che possono nascere sia dal basso che dall'elite militare sono ben collaudati e quindi addirittura dalle letture dei flussi dell'aumento del terrorismo che è venuto fuori dopo il colpo di Stato militare del 3 luglio del 2013 viene fuori che ISIS è stato rafforzato dalla presenza di Abdel Fattah al-Sisi e questa sua forte repressione della fratellanza musulmana. E evidentemente se qualcun altro arrivasse al potere e avesse una politica diversa da quella di Abdel Fattah al-Sisi nei confronti degli islamisti moderati, per esempio più inclusiva, c'è questa notizia interessante del rilascio di Abu Leila Mahdi, cioè del leader del partito Wasat, che è il più moderato tra i fratelli musulmani, se dovesse cambiare in questo senso, evidentemente per lo Stato islamico potrebbe essere un problema più che una risorsa. Ecco, noi anche già l'altra volta abbiamo parlato, no, del concetto di inclusione dei fratelli musulmani o perlomeno degli elettori di quel movimento. Dobbiamo ricordare che avevano vinto le elezioni, quindi è assolutamente una componente anche sociale, anche per la storia del movimento, no, Giuseppe Acconcia, che da sempre sono presenti, anche se messi al bando, però hanno un radicamento nel territorio, hanno adesso mi spingo forse avanti con le parole, è quasi un parastato, no, nel senso che comunque provvedevano anche a certi bisogni della popolazione, quindi erano molto molto dentro all'Egitto, e quindi è evidente che in qualche modo chi è a capo dell'Egitto adesso deve farci i conti. I fratelli musulmani si sono sostituiti alle carenze dello Stato per decenni, fornendo scuole, opere caritatevoli, ospedali e quindi aiutando soprattutto la parte medio-bassa della popolazione egiziana. Sono stati poi protagonisti delle rivolte di Piazza Tahrir, non dal primo giorno, anche se i giovani del movimento erano in piazza sin dal 25 gennaio, ma poi sono diventati protagonisti nei mesi successivi, fino a lasciare però la piazza se stessa nel novembre del 2011, quando i movimenti giovanili sono stati abbandonati e i Fratelli Musulmani sono arrivati al potere, prima controllando il Parlamento e poi la Presidenza della Repubblica. Evidentemente attraversano una fase critica, perché c'è uno scontro feroce tra i più giovani all'interno del movimento e la leadership politica più anziana, la maggior parte di loro è in prigione, è stata condannata a morte o all'ergastolo, quindi evidentemente è un partito di opposizione, ancora il principale partito di opposizione con un largo sostegno nella società egiziana, che però non ha nessun controllo sulle forze di sicurezza e quindi quando arriva al potere facilmente lo perde, e poi ha mostrato il muro contro muro con i movimenti secolari, i movimenti laici, e non solo, ha permesso l'ascesa dei gruppi salafiti, e questo è stato un errore madornale per la Fratellanza Musulmana, che però resta ancora il 20-25% dell'opinione pubblica egiziana, che non può essere cancellata da un giorno all'altro, come è avvenuto per esempio con la televisione Al Jazeera, i cui giornalisti sono stati completamente estromessi dal paese e alcuni di loro condannati sono stati espulsi. Sì, e due di loro, fra l'altro Al Jazeera English, però due egiziani rimangono ancora in attesa di processo, un processo che è stato rimandato ormai decine di volte. 349-238-6666 per i vostri commenti. Fra l'altro c'è un ascoltatore che continua a postofarmi dicendo Musulmeci, facendo chissà quale brillante gioco di parole, e mi accusa di essere l'unico rimasto a chiamare gli assassini dell'ISIS Stato Islamico. No, ha ragione, nonostante il modo in cui mi apostrofa, che è privo di senso. Spesso dico il cosiddetto Stato Islamico, perché nessuno ha riconosciuto quello Stato, questo è fuori di discussione, ma per comodità linguistica, per non dire ogni volta il cosiddetto Stato Islamico, utilizzo il termine Stato Islamico oppure ISIS, sperando di non essere tacciato di fiancheggiatore di terroristi solo per economia linguistica. Grazie Giuseppe Acconcia, grazie per essere stato con noi, per la tua lucida e super precisa analisi. Buona giornata e buon lavoro, Giuseppe. Grazie a voi. E al 349-238-6666 c'è chi dice: io preferisco sempre al-Sisi all'ISIS. Vi ricordo anche su Twitter, Nessun Luogo 24, oppure Giampazza su Facebook, è Nessun Luogo Lontano - Radio 24. Allora, tra pochissimo apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Stiamo in tema terrorismo, ma con un approccio completamente diverso. Cambieremo anche luogo. Adesso però l'informazione finanziaria e poi di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati, questa è la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano. Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli in redazione con me, Roberta Fisani a dare musica e ritmo a questa puntata. In questa seconda pagina vi faccio fare un po' di chilometri e vi porto nel Sahel. Porto nel Sahel per tentare di tratteggiare una figura del jihadismo e del terrorismo che ha fatto tanto parlare di sé. Lo chiamavano il Guercio, lo chiamavano l'Inafferrabile, lo chiamavano Mr. Marlboro Man, perché parte dei suoi proventi, buona parte, derivava dal contrabbando di sigarette, ma lui era o è, chissà, punto di domanda, molto bravo anche nello smuggling, nel traffico di migranti, nel traffico di armi, insomma il padrone di quelle piste nel deserto tra Algeria e nord del Mali, Mokhtar Belmokhtar. Dopo due mesi dalla sua presunta morte, perché dopo un bombardamento americano si era data notizia della morte, l'ennesima volta appunto del jihadista algerino classe 72, ebbene in un comunicato stampa firmato dall'organizzazione che lui guiderebbe, Al Murabitun, è ripreso dal sito SITE, che è un sito statunitense che monitora tutta l'attività jihadista in rete, ebbene si viene a sapere che il consiglio del gruppo avrebbe nominato Belmokhtar emiro e a capo di Al-Qaeda nell'Africa dell'Ovest. Allora attenzione, bisogna fare un passo indietro, perché intanto vorrebbe dire che Al-Murabitun cambia nome e diventa Al-Qaeda nell'Africa dell'Ovest. E fin qua direte voi, vabbè, è un cambio di brand, è un cambio di etichetta. No, perché se riguardiamo alla storia, gli ultimi 2-3 anni, Al-Murabitun era nato nel 2013 dalla fusione di due gruppi, quello dei cosiddetti firmatari col sangue, che era guidato da Mokhtar Belmokhtar, e dal movimento per l'unicità El Jihad nell'Africa dell'Ovest, Mujao, quello che poi intervenne anche nel Mali del Nord e dette grandi gatte da pelare a Bamako e anche all'esercito francese. Cos'era successo? Che uno dei leader di Al-Murabitun aveva giurato fedeltà a ISIS, allo Stato Islamico, al cosiddetto Stato Islamico, altrimenti l'ascoltatore mi bacchetta. Ma poi era stato smentito dallo stesso Belmokhtar. Insomma, quello che sembra aversi, quello che sembra disegnarsi, ancora una volta, non solo una guerra di informazione, ma anche di alleanze, alla quale l'Africa ovviamente non scappa, in cui da una parte lo Stato Islamico e dall'altra parte invece Al-Qaeda si contendono la forza centripeta, cioè si contendono il brand con più appeal, il brand più forte in questo momento. In questa strana guerra di informazione, di alleanza e quasi di brand commerciali dei due grandi brand del terrore, aveva giocato il suo ruolo anche, anche qui punto di domanda, ma cerchiamo di scioglierlo, Abubakar Shekau, che aveva giurato fedeltà ad al-Baghdadi. Shekau è il leader di Boko Haram, la formazione islamista che opera nel nord della Nigeria ma anche in altri paesi confinanti. Vi ricordate, nelle scorse puntate in Nessun Luogo Lontano abbiamo detto attenzione perché probabilmente è morto, e il presidente del Chad, Idriss Déby, aveva detto non solo è morto ma anzi è stato sostituito alla guida da tale Daoud. Ovviamente questa è una guerra, quella che si sta combattendo lì nel centro dell'Africa, e la guerra si fa anche con le voci. Le président tchadien l'avait déclaré grièvement blessé, peut-être mort, il y a une semaine. Abubakar Shekau aurait fait sa réapparition hier dans un message audio. Le chef de Boko Haram dément avoir. E allora dovremmo ribattezzare questo episodio vivo morto X, perché Shekau, che era dato per gravemente ferito oppure morto, a un certo punto ieri, poche ore fa, ha fatto uscire un suo messaggio audio, appunto in cui si rifà vivo e dice attenzione, io sono ancora qua, e quindi tutte quelle dichiarazioni del presidente ciadiano vanno prese con le molle. Allora, inquadriamo prima Boko Haram e poi vi presento il prossimo ospite di oggi. Rifiuto della cultura occidentale, islamismo radicale, attentati, stermini di massa e fedeltà nei confronti dello Stato Islamico di Abubakr al-Baghdadi. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono i guerriglieri fondamentalisti di Boko Haram, movimento terroristico fondato nel 2002 dal leader islamista Mohamed Yusuf e che oggi è riuscito a proclamare un emirato islamico nel nord-est della Nigeria. Il gruppo di combattenti, il cui nome può essere tradotto con «l'istruzione occidentale è vietata», è il prodotto di una campagna di reclutamento iniziata nel 2002. In quegli anni Yusuf fonda la sua prima scuola islamica a Maiduguri, attuale capitale dell'Emirato. Sfruttando il malcontento della popolazione, il gruppo si propose come alternativa al governo di Abuja. Le famiglie del posto mandarono i propri figli a studiare nelle scuole di Yusuf, ma l'organizzazione si rivelò presto un luogo di reclutamento per giovani jihadisti. Le prime azioni militari del movimento risalgono alle rivolte del luglio 2009, pochi giorni prima dell'uccisione di Yusuf per mano dell'esercito nigeriano. A capo del gruppo sale l'attuale leader Abubakar Shekau, che si distinguerà dal suo predecessore per un'ulteriore radicalizzazione del pensiero e per l'uso continuo della violenza nei confronti di miscredenti nigeriani occidentali e di militari governativi. Gli uomini di Shekau faranno parlare di sé con rapimenti e uccisioni di massa, l'uso di donne e bambini per compiere attentati kamikaze e importanti vittorie a scapito dell'esercito regolare. Proprio questi successi hanno permesso ai guerriglieri di conquistare un vasto territorio nell'area nord-orientale del paese, dando vita così all'Emirato Islamico Nigeriano. Oggi, con le voci che vorrebbero Mamat Daoud a capo del gruppo, il destino di Shekau e dell'organizzazione potrebbe essere giunto ad un punto di svolta. E vedremo quindi se è davvero punto di svolta. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano a Emilio Manfredi. Emilio. Buongiorno, ciao Giampaolo, buongiorno agli ascoltatori. Allora, Emilio Manfredi già giornalista e reporter da tanti paesi dell'Africa centrale, ora analista freelance per grosse organizzazioni come International Crisis Group e Human Rights Watch, e compie frequenti viaggi non solo in Nigeria ma in tutta quella fascia dell'Africa centrale che arriva persino dall'altra parte verso il Corno d'Africa. E noi ci eravamo sentiti, Emilio, proprio quando qualche tempo fa, insomma, si commentava su questa scomparsa o meno di Abubakar Shekau, che come un colpo di scena, come da misurato e consumato consumata prima donna, no, del palcoscenico jihadista in rete, tira fuori questo audio con cui scompiglia le carte a Idriss Déby. Quanto è credibile secondo te, quanto è vero quel file audio, quanto insomma c'è tanta propaganda? Aiutaci a capire. No, per me l'audio è credibile, ho parlato con una serie di colleghi, giornalisti, ricercatori anche di area Kanuri, quindi del nord-est della Nigeria, che confermano la credibilità dell'audio, la credibilità della voce, e anche quello che dice Shekau in questo audio fa capire che l'audio è stato registrato sicuramente negli ultimi giorni. Chi è poco credibile invece è il presidente ciadiano Déby, che chiaramente di questa guerra contro Boko Haram fa un gioco politico interno e regionale. Già aveva l'anno scorso creato una trattativa di pace con Boko Haram ai tempi della presidenza in Nigeria di Goodluck Jonathan, che poi si è rivelata assolutamente fallace, e il cui capo negoziatore, secondo Déby, sempre si chiamava Dan Lavadi, che in Hausa, in Kanuri, vuol dire nato di domenica. Chiaramente capite che c'è poco interesse per chi è nato di domenica in una comunità insomma musulmana, sì, per di più radicale. Déby ha delle elezioni politiche molto importanti a casa propria l'anno prossimo, e Déby sta utilizzando non soltanto nel bacino del lago Chad ma anche verso nord, verso il confine con il sud della Libia e quindi il Fezzan, la minaccia terroristica per rimanere in sella al potere e per rinsaldare delle alleanze internazionali con i francesi e con gli americani in primo luogo, che sono molto importanti per lui per accreditarsi o per forzare la mano internamente, visto che il suo popolo non è molto contento della sua oramai lunga se non lunghissima presidenza. Eh sì, perché è in piedi dal 90 se non erro, no? con un colpo di Stato, quindi insomma l'Africa spesso regala leader estremamente longevi, il Chad non si smettisce. In questo senso l'appuntamento elettorale per il 2016 evidentemente è un appuntamento importante, potrebbe essere uno spartiacque per lui. E quindi chiaramente, come ci stai spiegando, si sta giocando le sue carte. Emilio Manfredi, quanto Boko Haram sta smettendo di essere un problema nigeriano e sta diventando invece un problema regionale? Noi dobbiamo ricordare gli sconfinamenti in Camerun, in Chad, e questa forza di intervento internazionale che comprende appunto migliaia di militari, non solo ciadiani e camerunensi, ma anche del Benin e credo anche nigerini, se non erro. Sì, il problema è regionale, il problema, gli attacchi stanno avvenendo appunto, come dicevi, in Chad, in Camerun, in Niger, oltre che nel nord-est della Nigeria e più in generale nel nord della Nigeria. Oramai Boko Haram non è più un problema soltanto nigeriano, pur nascendo nel nord-est della Nigeria storicamente. Quanto il problema Boko Haram sia diventato regionale perché il Chad ha deciso di intervenire e di coinvolgere anche il Niger e il Camerun nella risposta a Boko Haram nello scorso mese di febbraio, forzando la mano all'organizzazione terroristica, e quanto invece Boko Haram già fosse un problema regionale, in questo momento è oggetto di studio, vi sono diverse opinioni. Di certo in tutta quell'area c'è un enorme malcontento verso i poteri centrali, malcontento che viene esacerbato anche dalla risposta che questi eserciti che menano queste missioni di controterrorismo, di controinsurrezione hanno sul terreno, l'impatto che queste missioni hanno sulla popolazione sul terreno, perché la mano non è pesante ma è pesantissima. Si parla, Amnesty International ha fatto uscire recentemente un rapporto che sulla Nigeria, in cui si parla di almeno 8.000 morti causati dall'esercito nigeriano durante la campagna di controterrorismo nel nord-est della Nigeria, e oltre 20.000 arresti non giustificati poi davanti a un tribunale. Quindi questo, come capite, non facilita il reincorporo di queste regioni già molto isolate, molto sottosviluppate all'interno di un contesto, insomma, di pacificazione nazionale. Grazie mille Emilio Manfredi, analista, freelance, e lo ricordo anche autore di un bel libro che ve lo consiglio, un po' perché Emilio è un amico e un po' perché il libro è bello, e quindi me ne prendo la responsabilità. La vita è brutale e poi muori. Emilio, quanto brutale è la vita? Dove sei? In spiaggia a Dakar? Adesso possiamo dirlo, dai. Sì, no, in questi giorni sono a casa a Dakar e sto cercando di riposarmi un po', per cui vista... purtroppo piove molto forte, quindi la vita non è poi sempre come ve la... È brutale, la vita è brutale. Grazie, grazie mille Emilio Manfredi, ciao, buona giornata e buon lavoro. Vabbè, 17 agosto alle 16.44, uno può anche, no, lasciarsi andare un attimo. Stiamo sulle cose serie, perché abbiamo raggiunto anche Alessio Fabiano per tratteggiare meglio questa continua minaccia, che è quella di Boko Haram, su questo leader. Shekau è vivo, non è vivo, molto ragionalmente lo è, perché come avete sentito Emilio Manfredi, questo messaggio audio è originale. Vi faccio sentire al volissimo un commento di Alessio Fabiano, che insegna storia dell'Africa contemporanea all'Università di Brescia, su Shekau, e poi facciamo una piccola pausa. Si tratta sicuramente di una sorta di guerra della comunicazione, visto che anche Abubakar Shekau muove molto i suoi passi sui media, e quindi risulta essere particolarmente importante dal punto di vista di Shekau e in generale del gruppo terroristico di cui ha la leadership, portare avanti un'immagine che sia solida e che non sia quindi di debolezza, soprattutto nel momento in cui la nuova presidenza nigeriana è passata ad un livello di attacco militare superiore rispetto al passato. Allora, ancora la guerra di Abuja, ma non solo, contro Boko Haram, subito dopo il traffico. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è sempre Nessun luogo è lontano. Stiamo parlando di Boko Haram, questa minaccia che ha fatto vacillare Abuja per anni, dal 2008 in poi, soprattutto dal 2010, e ora sta diventando un problema regionale che coinvolge il Niger, il Camerun e il Chad, come avete sentito da Emilio Manfredi. Una delle grandi chiavi di lettura che viene usata per spiegare la nascita di Boko Haram è sempre stato quello di dire: la Nigeria è un paese spezzato in due, un nord più povero e più arretrato e un sud invece col petrolio più ricco. La dimenticanza, la lontananza da parte del governo centrale nei confronti del nord è stato quello che ha dato linfa vitale a un'organizzazione come questa. Sentite che cosa dice su questo Alessio Fabiani, che insegna storia dell'Africa contemporanea all'Università di Brescia. A quanto pare sì, esiste ancora una Nigeria divisa nettamente in due, tra un sud che è più industrializzato, ma comunque industrializzato nel senso dell'industria del petrolio, e un nord che invece vive o sopravvive ad un'economia di sussistenza. Funziona però, funziona solo sino a un certo punto questa chiave di lettura, perché la Nigeria è un paese che sta attraversando in questi anni una fase particolarmente dinamica sotto tutti gli aspetti, compreso quindi anche quello economico, e la nuova presidenza dal punto di vista economico punta proprio a fare in modo che questa divisione, che questa frattura tra nord e sud possa in qualche modo essere ricucita, possa in qualche modo portare più ricchezza verso le zone che fino ad ora hanno sofferto di più rispetto a quelle invece tra virgolette più abbienti. E questo è il quadro del paese nel quale questa minaccia della formazione di Boko Haram si è instaurata, che adesso va a minacciare appunto altri paesi, che ha scatenato un contingente internazionale di migliaia di uomini formato da nigerini, ciadiani, camerunensi e anche truppe del Benin. Poi, come potete immaginare, i confini in quelle zone sono assolutamente porosi e quindi per Boko Haram è stato in passato molto facile fare scorribande nei paesi vicini. Questo è quello che accade sul terreno, però abbiamo iniziato questa parte, questa seconda pagina, Nessun Luogo Lontano, raccontandovi queste voci che corrono in rete, le voci di questi leader jihadisti, di questi condottieri di gruppi armati. Lì c'è tutta una dimensione quasi epica di queste figure, no? Come quella di Mokhtar Belmokhtar, Marlboro Man, l'imprendibile, il guercio, aveva perso un occhio, si era addestrato in Afghanistan, poche le foto che lo ritraggono che si possono vedere. Lo stesso dicasi per il Mullah Omar, abbiamo dedicato uno speciale di Nessun Luogo Lontano su questo. E in proposito vi devo anche dire che Mansour ha accettato l'endorsement di Al-Zawahiri come nuovo leader dei talebani, e anche qua c'è questo quasi questo fraseggio a distanza tra leader, che ha però sicuramente un effetto di propaganda, che ha un effetto sul pubblico, sull'audience. Perché se da un lato queste organizzazioni terroristiche si muovono sul terreno e a volte tentano anche di strutturarsi come Stato, come ha fatto appunto lo Stato Islamico con un grosso territorio quasi grande come la Gran Bretagna, dall'altra parte esiste una guerra che è invece molto più ineffabile, che è quella mediatica, che è quella fatta dai video di propaganda, che è quella fatta dai messaggi, che è quella fatta di messaggi audio che spesso sono rivolti ai politici, spesso sono rivolti a possibili adepti. Che cosa hanno in comune i leader dei diversi gruppi terroristici internazionali? Cioè, che cosa lega Mokhtar Belmokhtar ad esempio al Mullah Omar o al Baghdadi? C'è un filo rosso che lega questi personaggi, la loro presenza in rete. Abbiamo fatto questa domanda a Peter Knope, che è un analista per l'International Center for Counterterrorism dell'AIA. Lo abbiamo raggiunto in Sudafrica. Sentite che cosa dice quando gli chiediamo quali sono gli elementi in comune fra questi leader. Yes, there is. In the sense that these are people that have. Sì, c'è, nel senso che sono tutti dei militanti. Sono persone che hanno in testa un'idea di cambiamento del mondo. Sono carismatici, nel senso che attirano il supporto della popolazione. Non dimentichiamoci che anche in Europa ci sono molte persone che hanno idee di cambiamento e che cercano di attuarle creando organizzazioni che fanno pressioni da posizioni extraparlamentari. Ci sono molte persone che hanno questa idea di dover cambiare il mondo, ma solo alcuni di loro riescono a farlo a livello internazionale, diventando membri o salendo a capo di un gruppo. Per fare questo devi essere un militante, devi essere capace di mobilitare le masse, portare le persone dalla tua parte. Quindi un misto di attrattiva unita spesso alla reale convinzione della validità delle proprie convinzioni. Queste sono le caratteristiche in comune. E poi un'altra cosa che accomuna questi leader delle organizzazioni terroristiche è la taglia che pesa sulla loro testa. E allora come fa una persona a essere tra i più ricercati al mondo, alzarsi alla mattina e fare quello che deve fare? Sentite. No, it's a difficult position to be in, obviously. Ovviamente è una posizione difficile da tenere, ma allo stesso tempo rende queste persone rilevanti. Si immagini una persona di rilievo in un villaggio dell'Afghanistan o dell'Iraq. Non hai possibilità, non hai futuro, se non quello di lasciare il tuo villaggio e seguire questa strada. Ma agendo, mettendosi in competizione, aumentando il numero di sostenitori, diventi una persona rilevante e quindi le altre persone vogliono combatterti. Così ti crei un'immagine di rilievo. Il governo degli Stati Uniti avrà paura di te. Quella dell'uomo temuto non è certo una posizione semplice dal nostro punto di vista, ma per chi ha l'ambizione di diventare una persona importante, essere uno da sconfiggere è una bella posizione. È questo che attrae molti giovani senza futuro, senza lavoro, senza i soldi per sposarsi. Essere una persona temuta dai governi di cui si parla, citata dai media, ti rende una persona di rilievo, magari nel senso negativo del termine, ma pur sempre rilevante perché il mondo parla di te. Così ti crei un'immagine di persona di rilievo. So creating that it will give you that self image that you are relevant. E sicuramente nel processo di costruzione di questa epica del terrore e di questi personaggi, un ruolo fondamentale lo giocano tutti quegli addetti alla comunicazione che all'interno delle organizzazioni terroristiche lavorano proprio per diffondere i video di propaganda, per diffondere i messaggi audio, per diffondere addirittura magazine nel caso dello Stato Islamico, che forse è, dal punto di vista della raffinatezza della comunicazione e dell'uso della tecnologia dei video, sicuramente un esempio anche per Boko Haram. In uno dei video che vi abbiamo raccontato e che abbiamo analizzato in una scorsa puntata in Nessun Luogo Lontano, in effetti si vede un cambiamento da parte scusate, da parte della comunicazione di Boko Haram stesso, l'utilizzo di camere più sofisticate, l'utilizzo di un montaggio più serrato nel narrare un'operazione che i militanti di Boko Haram fatto. Tutto questo viene fatto, viene rilasciato in rete per cercare adepti, per cercare consensi e evidentemente nel pubblico che poi lo andrà a vedere. E allora la domanda chiave a questo punto è se la carriera di questi leader terroristici con i social media diventa, e con l'uso di internet diventa più semplice. Ascoltate ancora Peter Knope. Yeah, it's different. It's not easier or harder, but it's different. Sì, è diversa, non più semplice o più difficile, ma diversa. Le dinamiche dei social media sono diverse da quelle del mondo reale, il che significa che il modo in cui diventi rilevante nei media non è lo stesso con cui diventi rilevante nel mondo reale. Esempi si sono avuti durante le primavere arabe in Egitto e Tunisia. Persone fino a quel momento irrilevanti sono diventate importanti grazie al supporto ricevuto sui social media. Come questi lavorino non è ancora completamente compreso, perché non è stato ancora studiato bene. Noi valutiamo l'importanza di una persona nel mondo reale da come questa riesce a comunicare e influenzare con le proprie opinioni, facendo discorsi pubblici, andando in TV o apparendo nei media classici. Ma internet ha altre caratteristiche e c'è bisogno di un lavoro diverso per avere un milione di follower. E tu devi capire qual è questo lavoro. Al-Baghdadi, anzi il suo team, hanno bene in mente come farlo. Baghdadi, not Baghdadi himself, but his team, he's got some people around him that have perfect knowledge of how to do that. E la guerra del terrore si combatte anche ed evidentemente a suon di propaganda. ISIS lo ha capito molto bene e da questo punto di vista può insegnare agli altri, tra i quali Boko Haram, come vi dicevo, che sta copiando lo stile di ISIS. Ma allora a questo punto dobbiamo chiederci se il fatto di copiare questo stile di comunicazione è un segnale di forza oppure di debolezza. Sentite ancora Peter Knope. Boko Haram is obviously in the defense. Boko Haram è chiaramente sulla difensiva a causa dell'approccio militare degli stati confinanti, ma anche perché la risposta militare del governo nigeriano è più forte rispetto a un paio di anni fa. Sono alla ricerca di un nuovo sostegno, una nuova base. Questa è la loro debolezza. Stanno cercando di copiare l'approccio comunicativo dello Stato Islamico, perché si sono accorti che stanno perdendo. Questo è un segno di debolezza. They're losing momentum. Altro punto da toccare brevemente è queste continue morti e poi riapparizioni dei leader delle organizzazioni terroristiche sono un segno di forza o sono un segno di debolezza? Dal nostro punto di vista potremmo dire, a 9 vite come un gatto nessuno riesce a farlo fuori e quindi decisamente un segno di forza. Sentite invece che cosa dice Peter Knope. La cosa da sottolineare e che è interessante è che il jihadista, se muore, ne guadagna nell'immagine, diventa un martire. E essere un martire è una cosa positiva, perché tu dai la tua vita per una causa. Quindi morire in questo senso non è una cosa negativa. Esaltare chi ha 10 vite è una visione tipicamente occidentale più che islamica. Credo che la costruzione dell'immagine, semmai, avvenga più uccidendo il proprio nemico, perché nel jihad il martirio è una cosa positiva. Dying is redefined as a positive martyrdom issue. E chiudiamo questa analisi sulla comunicazione e anche sulla presenza o meno in rete di gente come Shekau, Bin Laden, Al-Zawahiri o Al-Baghdadi. Abbiamo chiesto a Peter Knope, studioso dell'International Center for Counterterrorism dell'AIA, se l'Occidente è pronto a combattere questi gruppi in campo mediatico. We're losing out on the battle in words. Stiamo perdendo la battaglia delle parole, della propaganda, perché il supporto sta crescendo. La cosa di cui si deve tenere di conto è che leader come Abubakar Shekau, Osama Bin Laden o Ayman al-Zawahiri sono supportati da centinaia di migliaia di persone che credono nelle loro visioni radicali. Quindi si deve lavorare sulla riduzione della loro attrattiva per ridurre il supporto a questi gruppi. Solo 2 anni fa si è iniziato a pensare a questa strategia di riduzione dell'attrattiva. È necessario iniziare a lavorare con i leader delle varie comunità, con le madri che in molti casi sono molto influenti. Quindi si deve iniziare a mettere in connessione i servizi di sicurezza con le comunità. Ma per fare ciò è necessario lavorare tutti insieme, come noi stiamo facendo, per ridurre l'attrattiva di queste organizzazioni terroristiche. Tempo scaduto, è tutto per oggi. Grazie a Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Benignoli in redazione, Roberta Fisani in regia. L'appuntamento è per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.